questo che non sa più darsi pace. Lui è il gioco di lei, tanto buona ma più furba di una zingara. Lui è pazzo di lei, pochi anni ma nel cuore tanto cinema. Lei è sale, fa male, ma porta quella cosa in più, quando c'è poco sapore, amore, e sa. Dimento è buono e lento, lei è